voglia di chiedere a te che cos'è stato. Forse ho sognato, non lo so. Non è accaduto, eri una semplice magia. Sono confuso, cos'è servito? Cosa ti ho dato? È quel ripetersi perché capita a me. Ciò che ci univa ci divide, è fragile. Senso di ansia che ci assale, non fa dormire. Cos'è servito? Cosa ti ho dato? Ciò che non c'è stato, per tutto ciò che non ho avuto, perché in quei momenti eri come la luna, con gli occhi un po' spenti vado avanti e vivo senza te. Quel disprezzo che c'è dentro ai tuoi occhi, come non fossi stato io. Dubbi e rimpianti, e se chiamarti servirà. Reggo agli istinti, sono punito. Cosa ti ho fatto? Che non c'è stato, per tutto ciò che non ho avuto, perché in quei momenti eri come la luna, con gli occhi un po' spenti vado avanti e vivo senza te, senza te, senza te, senza te. Senza te.